Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Da quello che i giornalisti hanno chiamato conclave, immagino che pagherebbero oro per avere queste immagini, noi ve le facciamo vedere per voi. Grazie. Di merda gli avete messo, 4 mesi di merda, giornalisti di merda. Virginia, non mollare, i giornali sono venduti. Non è nulla di personale contro la sindaca Virginia Raggi, però mi serve per iniziare questa trasmissione perché lei è, diciamo, il coté istituzionale più palese e più evidente, e ha una responsabilità istituzionale, di un movimento ormai diffuso che serpeggia nella rete, che è percepibile, che noi sentiamo addosso sulla nostra pelle, che è l'odio sociale per i giornalisti. Ora voi direte, fai una difesa di categoria, tu fai il giornalista. No, mi metto come primo della lista, se volete, di tutti gli infami possibili, di tutti i prezzolati possibili, di tutti i venduti possibili, se vi sta bene. Mi prendo tutto sulle spalle, io sono il peggio. Detto questo, dico, vorrei far riflettere le persone sul fatto che in realtà c'è qualcosa di molto più profondo rispetto a una palese sfiducia verso una categoria professionale che in realtà non sempre ha dato segni di estrema compattezza o estrema deontologia. Sì, può essere vero, ma non può essere generalizzato come categoria. Non può essere la demonizzazione totale, l'odio così viscerale è proprio contro i giornalisti. Non difendo i giornalisti, assolutamente, ma accadrà anche per i commercialisti, anche per gli avvocati, anche per i medici sicuramente. Ma il giornalista ha un ruolo diverso nella società. Avete sentito, la sindaca Raggi aveva fatto un video autoprodotto in diretta streaming su Facebook di lei in una festa allegra con alcuni supporter, tutti allegrotti, probabilmente hanno tutti alzato un po' il gomito, e mettendolo in rete in maniera maldestra, pentendosene subito, poi togliendolo, poi comunque in rete, come sapete, tutto ciò che lambisce la rete, dovrebbero saperlo, rimane in rete, è oggi argomento di discussione. Ha detto subito, cioè, i giornalisti pagherebbero peso d'oro per avere questo video. Cosa c'è dietro questa frase? C'è un profondo disprezzo per una categoria di persone che per mestiere devono informare, che comunque lo fanno, comunque c'è gente che lo fa bene, gente che lo fa con coscienza, gente che lo fa rischiando anche la propria vita, la propria sicurezza, la propria tranquillità per farlo. Perché bisogna così radicalizzare e instillare l'odio nelle persone dicendo che cercano soltanto il gossip? Le urla, avete sentito, sono la controparte di questo atteggiamento di cui chi ha un ruolo istituzionale comunque deve farsi responsabile. Quando è andata a Palermo, la Raggi, passando fra la folla, c'erano dei giornalisti, vanno a fargli le domande, come è lecito che accada, come fa parte del nostro mestiere. Noi dobbiamo fare delle domande, dobbiamo dare strumenti di decodifica al mondo di quello che accade. C'è una sorta di odio che somiglia tanto a quegli odi di massa, a quelle folle scatenate, a quella gente irrequieta che deve trovare per forza un capro espiatorio. La mia riflessione è proprio questa, vi darò alcuni sintomi, alcune letture del fatto che essere giornalista e muoversi in rete comunque oggi significa beccarsi una caterva di insulti. Voi direte, fa parte del tuo mestiere. Benissimo, io me li prendo, ma vedo qualcosa di più. Vedo un senso così diffuso, così collettivo, così generalizzato, così pressapochista e così di facile presa e di facile successo. Non vorrei che dietro tutto questo ci fosse trovare un capro espiatorio, perché ci possa essere un grande cambio nel nostro paese in cui non possa più esistere la stampa, non possa più esistere la libera espressione del pensiero, non possa più esistere la libertà di avere organi di stampa che comunque in qualche maniera raccontano il quotidiano. Da cosa può nascere questo? Può nascere dall'idea che l'intermediazione ormai è in mano a tutti. Tutti abbiamo la rete e quindi tutti possiamo fare il tuo mestiere. Che vuoi tu? Fai il giornalista, ma lo posso fare anch'io. Guarda, c'è tutto in rete. Può essere questo, può essere, dipende da questo, ma è diverso lavorare nell'informazione, prendersi anche i rischi comunque di essere mediatore di informazione nel bene o nel male, è diverso che rimandare, copia e incollare, condividere un link di una cosa presa in rete. Beh, oggi su questo vorremmo ragionare, perché c'è un odio sociale così diffuso nel nostro paese contro i giornalisti. I giornalisti non vogliono assolutamente sentirsi assolti dalle loro manchevolezze, ma vogliamo capirlo. 800 24 00 24. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Tutti i giornalisti che vedete, era tutta gente di sinistra, lotta continua. Adesso sono tutti lì, hai capito? Chi fa il capo del telegiornale, chi fa il capo redattore, chi fa il capo, chi è il direttore di un giornale. Tutta gente che si è venduto il culo e l'anima. Questa è la gente, quando vedono i soldi, hai capito? I soldi, diceva mia madre, fanno venire la vista ai ciechi, hai capito? Vuol dire che i soldi fanno acquistare anche la vista ai ciechi. E questo è il mondo gira intorno ai soldi. È lì che gira questo mondo di merda. Questo signore si chiama Pino Scotto, è uno youtuber, una persona che esprime il suo parere su YouTube, quindi ha uno strumento di diffusione del suo pensiero, della sua opinione, e questo fa giustamente, nessuno vuole censurarlo, nessuno intende togliergli la voce, però esattamente è simbolico e significativo che quello che dice sulla classe dei giornalisti, ma altrettanto tanto vero che questo è un sentire diffuso, collettivamente condiviso, che nemmeno 30 secondi dopo la mia introduzione, che mi sembra un'introduzione pacata, in cui mi metto per primo la testa sul ceppo, se volete, non voglio difendere nessuno e niente, voglio capire cosa c'è dietro, mi stanno arrivando caterve di sms, dice, ti stai rispondendo da solo a questa domanda, basta ascoltarti, mistificatore della verità, pongo domande. Ho posto una domanda, ho chiesto alle persone, ragioniamo assieme su qualcosa che è oggettivamente rilevabile. Nicoletti, finalmente ci sei arrivato, meglio tardi che mai. Che vorrà dire? Non si sa. Poi ancora, mistificatore della verità, libertà di stampa. Poi, sapete cos'è? Le poche notizie date vengono gonfiate per audience. Audience, scritto così, audience. E quello che rimane sono solo opinioni, non fatti. Altro che giornalisti a caccia di bustarelle, poi diciamo è tutta una caterva di lo stesso luogo comune, siete comunque una classe di venduti, è facile dirlo, ma bisogna anche prendere delle distanze. Edoardo, buongiorno, primo ascoltatore. Sì, buongiorno. Io volevo dare soltanto uno spunto di riflessione, e cioè far capire che questo odio, questa malevolenza nei confronti della classe è determinato, sebbene sbagliato, come è sbagliato sempre fare di tutta l'erba un fascio, ma è determinato da quella funzione sociale che ha il mestiere di giornalista, quella necessità per la popolazione di essere correttamente informata, che fa apparire ogni notizia errata, gonfiata, di parte, la fa apparire come un attentato a quella serenità per valutare le cose del nostro paese, che tutti. Ma io non parlo soltanto di politica, la politica la metto, è marginale rispetto a questo, è un atteggiamento diffuso, lo sento con una certa inquietudine, lo vedo tutte le volte che io metto qualcosa di innocentissimo in rete, su un mio pezzo, una mia inchiesta, un mio modo di pensare, ma anche una foto banale. C'è sempre qualcuno che ti dà del venduto, che ti dà del prezzolato, che solo per il fatto che tu sia anche giornalista, come ci fosse una sorta di invidia e odio di classe. Questo mi fa pensare qualcosa in più, ma non è che voglio difendere nessuno, nessuno è innocente. Davide, buongiorno. Davide. Pronto? Sì, Davide, l'ascolto. Sì, buongiorno. Intervenivo per dire che sono assolutamente d'accordo con lei per quanto riguarda il discorso dell'odio e di questa esasperazione che c'è. E come se lo spiega lei, secondo lei? Secondo me è tutto diventato un po' come il tifo Milan-Inter, quindi è diventato un po' tutto io sono di qua o sono di là, cioè manca un po' il pensiero critico. Io già mi trovo un po' in imbarazzo con lei che è molto colto. No, ma io non sono colto, io sto parlando semplicemente. La mia è una domanda, vorrei vedere se lei facesse qualsiasi tipo di mestiere che comunque è gravato da una responsabilità sociale, indubbiamente. Capisse che c'è ormai una cosa diffusa, è come uno si dovesse vergognare, non so come spiegare, come se uno facesse, che ne so, il bancario in un paese dove sono tutti falliti per colpa delle banche. Ecco, mi sento in questo tipo di situazione. Forse perché diciamo si è seminato male in un certo senso. Sì, ma non è, io non ho seminato solo, male, io onestamente. Va benissimo il suo lavoro, però se posso trovare un'incoerenza già iniziale quando ho mandato la voce di Virginia Raggi e dopo questa sembravano dei barbari che parlavano. Però c'era, è oggettivo, così era, è successo questo. Sembrava un po' così. Ma lei è un attivista 5 Stelle? Sì, sì. Allora, posso, le faccio subito, non, sono totalmente disinteressato alla politica. Se Virginia Raggi fosse stata di qualsiasi altro partito l'avrei detto lo stesso. Mi dà atto che comunque in questo momento... Non capisco bene la ragione, esiste una sorta di demonizzazione istituzionale e è molto pericolosa, perché poi i giornalisti che stanno in piazza a Palermo si sono presi, diciamo, gli insulti se non le botte della folla. La folla basta dirgli dagli all'untore, e quando dice dagli all'untore e chi è sotto e chi tocca tocca. Non è un po' pericoloso questo, secondo lei? Però alla stessa stregua, diciamo, quello che è sempre stato, diciamo, rivolto come, chiamiamola tra virgolette, macchina del fango ai 5 Stelle, penso sia un po' alla pari di quello. Ma che no, poi... Guardi, è vero fino a un certo punto, mi scusi, perché anche 5 Stelle avranno le persone che le rappresentano. Comunque esiste un principio che io difenderò fino alla morte, della dialettica, di accettare la dialettica. Benissimo, si trovano i 5 Stelle, i giornalisti che li rappresentano, già ci sono, e abbiano la possibilità di rappresentarsi in una maniera migliore. Nascondersi e mettere i video poi su YouTube e metterli anche male, come è accaduto quella sera, si rende conto che dal punto di vista della comunicazione è uno sfracello, capito? Sarebbe molto meglio entrare nel sistema, prendersi una parte del sistema e lavorare nel sistema. Non è, voglio dare consigli, non voglio dare consigli. No, ma io sono, diciamo, attivista di strada da banchetto, per cui sono, diciamo, alla base e faccio il mio. E, diciamo che mi dà un po' fastidio questo, appunto. Secondo me su web, ad esempio, io non ci entro perché non mi piace questa dialettica che si è sviluppata, c'è una vera e propria guerra civile tra due opposte fazioni. Però lei vede, lei come attivista, sincero e ideologicamente privo di ogni condizionamento, dice si sta scatenando una guerra civile. Questo che sto dicendo io. Secondo me sarebbe un attimo di fare punto e di, non voglio fare quello che vuol per forza trovare i punti di alleanza, ma fare un attimo punto. Fermi un attimo. Adesso vi do un colpo di teatro. Mi sono portato dietro l'asso che butto subito sul tavolo, così me lo gioco subito. Gianantonio Stella, buongiorno. Buongiorno a voi. Gianantonio Stella, giornalista del Corriere della Sera, è assieme a Sergio Rizzo quello che ha inventato la parola casta. Quindi al di fuori della possibilità di appartenere comunque a una casta, un libro che è uscito nel 2007, che ha venduto qualcosa come, mi sembra, 1.300.000 copie, correggimi se sbaglio. È l'unico giornalista, uno dei pochi giornalisti in Italia su cui nessuno può dire niente. Voglio, no, Gianantonio... No, già lo contesto. Contesto beh, io. Uno dei pochi, dai, uno dei pochi. Insomma, sì. Non è del tutto vero, comunque... Vabbè, a te non ti hanno mai detto nulla. Ecco, a te non ti hanno mai detto nulla, dai. È difficile... Ma no, anche a me, figurati, certo. Come no? Vabbè, adesso che ci siamo fatti io complimenti... Vorrei però agganciarmi proprio al discorso che hai fatto tu, no? Allora, la casta... è una cosa di cui non ci siamo occupati solo noi, ovviamente sono usciti tanti altri colleghi, se ne sono occupati tanti altri. Basti dire che la parola casta, a differenza di quanto ritiene D'Alema che legge i libri sbagliati, non è stata inventata affatto da me e da Rizzo, e neanche dalle Brigate Rosse, come gentilmente lui butta lì, amabile come al solito. È stata creata, se vogliamo, da Don Sturzo, almeno, voglio dire, Don Sturzo e prima di lui altri ancora, però Don Sturzo è quello che gli ha dato più dignità subito. Ma tu richiedi sforzi di complessità culturale che non ha nessuno, lo sai benissimo. Sì, vabbè, certo. Richiede leggere qualche libro. Una grande richiesta. Allora, pur avendo noi fatto questo lavoro, credo, di giornalismo civile, poi ci troviamo alle prese con delle balle colossali involontariamente che non c'entrano nulla con noi, ma che in qualche modo si mettono nel filone, no? Nella scia. Penso ad esempio a quella del senatore Cirenga, e leggo una cosa che ancora in questi giorni gira, leggo questa cosa qua. Ieri il Senato della Repubblica ha approvato con 257 voti favorevoli e 165 astenuti il disegno di legge del senatore Cirenga, che prevede la nascita del fondo per i parlamentari in crisi creato in vista imminente fine legislatura. Questo fondo prevede lo stanziamento di 134 miliardi di euro, lo rileggo, 134 miliardi di euro. Non sono due soldi. Da destinarsi a tutti i deputati che non troveranno lavoro l'anno successivo alla fine del mandato. Questo quando in Italia i malati di SLA sono costretti a pagarsi da soli le cure. Rifletti e fai girare. E poi sopra c'è addirittura questo. Come mai il telegiornale non dice queste cose? Come mai il telegiornale parla delle Belen? Come mai gli italiani non sanno queste cose? Beh, la risposta è perché è una balla. È una balla. E dovrebbe arrivarci qualunque citrullo, per quanto, voglio dire, appassionato di politica qualunquista, perché il Senato ha 315 elettori, quindi non può esistere un voto con 257 a favore, 165 astenuti, perché quei 134 miliardi sarebbero mezzo miliardo a testa per ogni senatore, e neanche il più citrullo dei qualunquisti può immaginare. Ma quanta gente se lo sarà condiviso e l'avrà mandato in giro? Figurati. E poi soprattutto il senatore Cirenga non solo non esiste, ma non è mai esistito. Allora, questa cosa qui è stata già smontata 4 anni fa e continua a girare. E gira di tutto. A proposito del fatto che tanto l'informazione ce la facciamo da soli. Allora, Paul McCartney è morto nel 62, sostituito da un sosia. Michael Jackson invece è vivo e fa il benzinaio in Canada. Ogni tanto spunta una ragazza con 3 tette e poi c'è la Boschi che va a fare il giuramento col tanga che spunta con le mutandine che spuntano dai pantaloni, eccetera. Cioè, voglio dire, siamo sommersi da cretinate. Lo dice a me che faccio le battaglie ancora sui vaccini che fanno venire l'autismo e mi danno del venduto delle case farmaceutiche. Secondo me succede, te lo spiego citando il Marco Polo, citando il Milione. Allora, Marco Polo sta 17 anni nel viaggio in Cina, dal 71 all'88 del 200. Quando torna racconta un sacco di storie straordinarie e ci mette dentro alcune cretinate pazzesche. Te ne leggo una. Però aspetta, Gian Antonio, mi dicono che devo dare la linea, che già da 2 minuti che l'abbiamo rubata. Fermati un secondo, un respiro di pochi secondi, me la racconti fra un po'. Cita Gian Antonio Stella una fonte classica per dimostrare che è molto più facile credere alle panzane che credere alle realtà. E se la sostituzione del giornalismo tradizionale deve essere il diffusore di panzane, beh, benvenuti nel mondo delle favole. A tra poco. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Senta, sono 3 milioni di euro i danni stimati per i black blocker. Chi deve pagare questo? Metti, dobbiamo parlare dei black blocker. Lei... No, ragazzi, non mandare lecito, rispondo sì, a sì. No, non rispondo. E noi siamo una democrazia. Sì, assolutamente, ma io le rispondo. Lei chi dice? Lei Lombardia. No, Lombardia. Ma poi ho già risposto ampiamente, se tu fossi informato. Cioè, prima di domandare, sarebbe bello informarsi. Allora, però ho risposto ampiamente alla tua domanda. Ma informa. Sei una giornalista e non sei informata, ma un giornalista sei. Federico Lido, il tuo lavoro è prima informarti e poi domandare. Non posso domandare. Ma con una veemenza, è una roba, tu mi vieni a chiedere una cosa. Innanzitutto mi dici, posso domandarti? Arrivederci, grazie. Questo è Fedez che si accapiglia con una giornalista di Lombardia, le faccia delle domande. Molte volte più facile rispondere che dire informati. Se risponde, la domanda è secca, la risposta è secca, se non ha qualcosa da rispondere. Parliamo dell'odio di classe contro i giornalisti. Vi cito un tweet che è arrivato, anzi una catena di tweet da parte di Antonia su di me. Mi dice: Nicoletti, le panzane li fonde l'ecaro, signore, con tracotanza inaudita, divulga razzismo generazionale. Lo ascolto molte volte, il veleno che sputa sulle persone anziane e sugli animali è ributtante. Ha avuto la tracottanza di attaccare le persone che amano gli animali nel modo più cinico e rivoltante. Quel signore parla di vecchi come cadaveri ambulanti, di persone con putrefazione e degli animali. Ecco, queste sono, diciamo, le due chiavi di lettura che maggiormente mi rendono sgradito al qualunquismo della rete. Ce l'ho con gli animali, semplicemente perché sorrido molte volte sulla follia a cui può raggiungere l'animalismo, e ce l'ho con i vecchi perché rido parlando degli Umarell. Nessuno è più vecchio di me, ho 62 anni, posso ridere su me stesso, butterei veleno su me stesso, sono vecchio, lo so benissimo, non è che la prendo coi vecchi. Scherzo e ragiono sulla nostra classe intermedia degli Umarells, che sono questi signori che in fondo rappresentano un punto sicuro nella nostra sgangherata organizzazione sociale. Ma questo è già bastato per fare di me un nemico. Risponderanno tante persone, diranno: è vero, sì, e tutto l'odio gattaro possibile si scatenerà contro di me. Mi scivola, c'è gente che sta molto peggio, però per far vedere com'è facile innescare questo meccanismo. Velocemente due telefonate, poi riprendo con Gian Antonio Stella che ci faceva una citazione di Marco Polo. Nicola, velocemente. Sì, Nicola di Legnano. Allora, lei ha detto prima una cosa importante, no? Quando ho parlato del signor Stella, no? Uno dei pochi giornalisti, degli ottimi giornalisti in questo paese. Infatti lui me l'ha contestato, però. Lui dice, non è vero. Ma è la realtà, è la realtà. Questo paese è stato rovinato anche da parte dei giornalisti che non hanno fatto il loro lavoro. Questa è l'unica realtà. Non ci sono altre storie. Voi vi meritate questo odio che avete, che gli italiani hanno verso di voi. E questa non c'è storia, è così e basta. Perché quindi, diciamo, per esempio in ogni... Sì, sì, però non si arrabbi, non si arrabbi, sì, però io sono tranquillo. In ogni elezione, no? Voi aveste pubblicato i delinquenti che sono stati mandati su al governo, piuttosto che gli assessori, piuttosto di tutta questa gente... Scusi, sono per strada, sto camminando. Si ferma questa secondo. Gente qua, probabilmente avremo degli ottimi giornalisti e una classe dirigente migliore. Quindi il problema, l'odio che c'è nei vostri confronti è giustificabile. È dovuto a questo. Ma può essere generalizzato secondo lei? Ormai è identificare il giornalista come una casta da abbattere. Però quando il 70%, mi scusi, è in questo stato, è una casta, parliamoci chiaro. Ma questo, al suo punto di vista, benissimo. Se mi permette, glielo contesto, non voglio difendere la categoria, ma glielo contesto, non è così. E semplicemente poi, una volta identificato il nemico di classe da eliminare, da abbattere, diamo per assurdo che abbattiate tutti i giornalisti che ci sono in Italia. Secondo voi l'informazione poi sarebbe bella, maneggevole, libera e tranquilla? Guardi, perché non cambierebbe niente se questa è l'informazione che ci arriva. Va bene. Non lo so se è un bene o un male. Ci pensi un attimo, però ci rifletta. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, sono Giuseppe da Milano, buona giornata Nicoletti e a tutti gli ascoltatori. Io non sono d'accordo che eliminare i giornalisti vuol dire eliminare l'informazione, insomma, avere un po' più di libertà. Noi siamo accomunati da una cosa: io faccio il tassista, anch'io ogni tanto vivo di odio sociale, soprattutto a seconda dei momenti. Però volevo farvi riflettere su una cosa, quello che dicevate da studio, il fatto che chiunque si alzi la mattina e possa fare il vostro lavoro, alla fine lo fa in maniera così, è un po' un pressappochismo, non c'entri di professionale. Questa cosa non la viviamo insieme. E molta stampa purtroppo si è messa così, arbitro supremo, a decidere che un'applicazione poteva essere può sostituire il mio lavoro. Non le so. Quindi mi faccia capire, i social stanno ai giornalisti come Uber sta ai tassisti, qualcosa del genere. Chiarissimo, accettato. Capito, il problema. Chiarissimo, chiaro, è molto chiaro. Gian Antonio Stella, riprendiamo con cosa dice Marco Polo, così abbiamo degli elementi aulici. Però dico tassista... Insomma, tutti i torti non ce li ha. Sì, sì, mica dico nulla. Perché in effetti la rivendicazione della totale libertà, voglio dire, senza offrire delle precise garanzie che siano, insomma, capito, è una forzatura. Ma io non dico abolire l'Uber dei giornalisti, non dico abolire i social, dico un principio di discriminazione, esatto. Ecco, solo questo. Esatto, sì. No, c'è stata di trovare la giusta corretta dimensione sia per chi fa tassista sia che per il giornalista. Non basta il bollino blu su Twitter per dire di essere una persona che esprime opinioni attendibili. Torno a Marco Polo. Sì. Allora, Marco Polo sta via 17 anni, torna e può raccontare un mondo intero che nessuno ha mai visto, no? A differenza di oggi che è tutto in TV. Eppure fra le cose vere racconta una balla, e cioè scrive: Andaman, parla dell'isola Andamane, è un'isola e non hanno re, e sono come bestie selvatiche, e tutti quelli di quest'isola hanno lo capo come di cane e denti e naso come di grandi mastini. Cioè, che l'isola Andamane ci fossero i mercanti cinocefali è una stupidaggine pazzesca. Perché la racconta? Questa è la cosa più interessante. La racconta perché, siccome tutti all'epoca di Marco Polo erano convinti che alle isole Andamane ci fossero i mercanti con la testa di cane, se lui non l'avesse raccontato avrebbero detto: figurati, non c'è stato. Marco Polo è stato davvero in Cina, che non ha neanche visto i mercanti cinocefali dell'isola Andamane. Cioè, quello lì è un classico, è un caso classico fantastico per dire come molti scrivano su misura del proprio lettore, scrivono quello che al lettore piace. Questo l'ha fatto Marco Polo e l'hanno fatto purtroppo moltissimi giornalisti nella nostra storia, non solo d'Italia ma di tutto il mondo. Questi sono i mestieri, ci sono i medici bravissimi, i medici cialtroni, gli avvocati formidabili, gli avvocati cialtroni, ci sono i calciatori fantastici come Leo Messi, ci sono le schiappe come ero io, forse anche tu, Nicoletti. Ma figurati, l'ho detto in partenza. È un mondo in cui non tutti sono bravi e non tutti sono buoni. Però quello che stai dicendo è un principio di saggezza, un principio, certo, diciamo di ragionamento nella sua semplicità, che richiede un'elaborazione che la rete spesso non ha. Ascolto un altro collega, Selvaggia Lucarelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, non me ne volere, ma ti pongo antitetica a Gian Antonio Stella nella percezione generale, perché sei la giornalista che sta nei social, che fa le battaglie nei social, che si muove nei social, è quella che o è tanto amata o è tantissimo odiata, proprio tantissimo odiata. Il tuo punto di vista, se anche tu percepisci questa sensazione con cui mi sono svegliato questa mattina, di un odio di classe verso i giornalisti? Beh, fortissima. Poi devi aggiungere il fatto che io non ho il famoso tesserino e sono una donna, quindi vengo percepita come quella che pratica la professione abusivamente, e in più sono una donna, quindi non ne sto nel mio ruolo decorativo, ma mi permetto anche di avere delle opinioni, per cui è sempre continuamente essere tacciata di essere raccomandata, zoccola, eccetera, e non uso eufemismi perché questi eufemismi non ci sono nella rete, quindi è inutile star lì a usare altri. Diciamo, il principio di attacco più forte che è su di te, anche perché sei una donna bella, appariscente, non nasconde la sua femminilità, quindi è quello di: tu sei una zoccola, sta lì perché chissà cosa ci avrai dietro. Questo. Certo, vabbè, certo. Questo è normale. Oppure scrivi di Belen, cioè l'appunto principale, no, che viene mosso è: ma perché non scrivi di Belen e stai zitto? Il linguaggio in realtà nei confronti dei giornalisti è interessante, no? Perché intanto noi, se vai a leggere le critiche, non abbiamo mai un direttore, abbiamo sempre un padrone. Cioè, il tuo padrone ti ha detto di scrivere, non il tuo direttore. Non lavoriamo, noi siamo pagati per. Cioè, tu sei pagato, certo, ti pagano per scrivere, perché gli altri, il vasaio non viene pagato per fare i vasi, l'idraulico non è pagato per sturare i tubi, è la stessa cosa. Poi, se scriviamo di politica siamo servi, se scriviamo di cronaca siamo sciacalli, io che scrivo spesso di costume sono una gossipara. E se scrivo ovviamente di fatti miei, che ci frega dei cazzi tuoi, questo è sempre. Allora, fermati un attimo, Selvaggia, siamo sulla strada giusta. Devo dare un attimo la linea, come sempre, al mio padrone, e poi fra un secondo andiamo avanti in questa analisi vista anche dal tuo punto di vista. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Melog, cronache meridiane. 800240024, esiste un odio di classe diffuso che anche voi percepite nei confronti della casta col K dei giornalisti? Sto parlando con Selvaggia Lucarelli, una collega che scrive tutti i giorni sul Fatto Quotidiano, ma da anni è nota per una sua attività di polemista in rete, è stata una delle prime donne blogger. Selvaggia in questi giorni si sta distinguendo per una sua campagna personale contro l'odio in rete, nella sconfessione del sottile, sommesso, limaccioso senso di odio, di disprezzo, di volgarità, di pressione pesante e violenta, soprattutto nei confronti delle donne. Ma devi dirmi questa mattina, nella fattispecie, quanto lo senti rispetto a una categoria, quella degli informatori? Ma tantissimo, quello che ti dicevo prima. Tra l'altro, scusami, Gianluca, permettimi di dire una cosa. Allora, ci viene rimproverato questo, no? la scarsa onestà intellettuale, per cui è questo il finto principio di base, no? Non siamo onesti intellettualmente, siamo pagati per scrivere questo o quest'altro. Quindi siamo una casta, a tutti gli effetti. Siamo una casta. Ecco, allora, io vedo la seguente cosa. Ogni volta che un utente medio comincia ad avere un po' di seguito, di popolarità sui social network, quindi quello che sta dall'altra parte, quello che ci critica, ovviamente viene notato, comincia ad avere una sua platea più vasta. Una sua leadership guadagnata sul campo. Guadagnata sul campo e nel breve periodo arrivano, non so, se si occupano di costume, per esempio arrivano Mediaset, Sky, eccetera, che li pagano questi utenti, quelli che erano i duri e puri, per twittare, per scrivere post, che so, su X Factor, su Uomini e Donne, su Tu sì che vale. Quindi tu ci riveli, scusami Selvaggio, perché è delicato quello che stai dicendo, ma è importante. Che in realtà, dietro, diciamo, tutti gli opinion leader della rete, quelli che fanno il trend, quelli che parlano di fashion, quelli che parlano di televisione, in realtà c'è un sottomercato, anche i grandi YouTuber alla fine sono tutti un marchio addosso. Anche loro in qualche maniera sono prezzolati, solo che non devono rispondere a nessuno della loro deontologia, o sbaglio? Certo, poi loro sono prezzolati in modo particolare, perché non è che vengono assunti da un giornale per scrivere di qualsiasi cosa, no, vengono assunti, insomma, hanno dei contratti per una trasmissione specifica e devono twittare e scrivere che quella trasmissione è bella. Allora ti faccio un'altra domanda, più insidiosa e più pericolosa. Le persone che spesso accadrà a te, accade a me, accade a tutti, ti attaccano in maniera indiscriminata, violenta. A me mi danno, l'altro giorno ho trovato un paio di scarpe da donna col tacco sotto un portico a Brescia, mi sembrava una cosa poetica, pioveva, mi sono fermato e ci ho fatto un pensiero sul fatto che pensavo ci fosse una donna fantasma che mi seguiva, l'ho messo in rete, condivido tutto, subito uno ha scritto la topa ti ha rovinato come a Berlusconi, e ne ho fatto una casistro, dico ma perché? Improvvisamente mi devono attribuire per forza qualcosa di basso, di istintuale, di volgare, di arrapato, su una cosa che in realtà dovrebbe galleggiare come un pensiero tenero, poetico, immaginifico. Come te lo spieghi? Beh, c'è un'invidia sociale feroce, c'è una tendenza a svilire sempre il tutto, no? Nel tuo caso un pensiero poetico, eccetera. Ti dico solo che esiste una pagina Facebook che si chiama Giornalisti che non scopano abbastanza. Ecco, forse le donne sono zoccole, gli uomini non scopano abbastanza. Sì, esatto. Me lo dicono tutti i giorni, tutti i giorni. Esatto. Io tutti esatto. i giorni c'è qualcuno che dice tu non scopi abbastanza, scopa di più. Esatto, è una pagina comunque con... Che sono consigli che uno ne tiene conto, senz'altro, ma cosa c'entra con la professione? No, perché se gli altri fanno male il loro lavoro, fanno male il loro lavoro, sono delle capre, eccetera. Voi uomini, nello specifico, fate giornalisti, ovviamente sfogate le vostre frustrazioni, che nascono evidentemente da una poco vivace vita sessuale, scrivendo. Eccetera. Ma chi lo gestisce questo sito, i giornalisti che non scoprono abbastanza? Una curiosità. Su quale basi, diciamo, documentali? Questo mi interessa. Io credo che siano sempre, diciamo, gli amministratori di pagine molto violente su Facebook. Ecco, ma la domanda che volevo fare, però, quando l'attacco è così preciso, così circostanziato, persone che ti scrivono che hanno magari quattro persone che li seguono, hanno fatto 5.000 messaggi nel giro di due giorni, non pensi ci possa essere uno stesso livello di prezzolamento per seminare l'odio di casta nei confronti dei giornalisti? È una domanda che non ho risposta. Dal tuo osservatore, cosa pensi? Non lo so, secondo me non necessariamente, secondo me si crea il branco con grande facilità, ci sono delle categorie sociali e professionali che in qualche modo attirano odio in maniera più semplice, i giornalisti sicuramente fanno parte di quella categoria. Io faccio una sorta di esperimento antropologico, no? Come dicevi tu prima, cerco di capire chi siano queste persone, perché mi interessa vedere l'individuo, perché il branco... Cioè, dimmi la tipologia, no? Che hai osservato te, che mi Guarda, interessa. La categoria che citavi prima tu, devo dire che è particolarmente aggressiva, quella degli animalisti. Io ho scoperto che moltissime persone sensibili alla causa animali sono molto insensibili alla causa uomo, diciamo così. Allora. Quindi io mi ritrovo spesso insulti terrificanti, puttana, eccetera, eccetera. Vado a vedere la pagina, no? E mi aspetto che ci sia un troglodita dall'altra parte, un uomo con la clava, e magari scopro che la foto profilo è una donna circondata dai suoi gattini che aderisce a tutte le campagne di sensibilizzazione. La signora che ho citato prima, che mi dava dell'odiatore degli anziani e degli animali, una gentilissima esatto. signora con capelli grigi. Ora chiaramente non voglio generalizzare, ci sono no, che fanno bene a fare quello poi che altre, fanno. Poi altre categorie? Ma guarda, sono quei profeti delle scie chimiche, dei rettiliani, quelli tutti. Ogni volta io sai che faccio battaglie riguardo alle improprie attribuzioni all'autismo, perché vivo il problema in famiglia, figurati, sì. Per aver detto che fatevi vaccinare i figli, mi becco caterve di insulti su questa cosa qua. Certo, no, lo so benissimo, ma guarda, banalmente anche tutti quelli che hanno la foto profilo arcobaleno, moltissimi di quelli che hanno la foto profilo arcobaleno lasciano messaggi terribili, cioè ieri per dire, no, ho dovuto cancellare dalla mia pagina un ragazzo che aderiva, andava a tutte le campagne, gay pride, foto col fidanzato, eccetera, quindi uno che insomma, voglio dire, non farebbe mai passare un insulto alla categoria omosessuale, che però veniva da me a scrivere in picca di puttana, eccetera. Ecco, che avevi fatto? Perché qual era la tua colpa? 2.0, eh? Qual era la tua colpa? Nello specifico, ieri avevo scritto che non ne posso più di quelli che cioè, criticavo un tormentone che c'è su Facebook, una banalità allucinante. Senti, poi ho visto, adesso... tu sei stata addirittura l'obiettivo di molte ragazzine. Ho visto che tu hai mandato alle madri lettere di ragazzine che dicevano: tuo figlio sa che c'ha la madre puttana, ad esempio, capito? Sì, ho telefonato anche. Io ogni e che ti ha detto la madre? Allora, ci sono due categorie di madri, o quelle che negano il problema e quindi dicono lei si sbaglia, ti bloccano addirittura su Facebook per non darti parole, eccetera, ma altre, soprattutto quelle che raggiungo al telefono, che cadono dalle nuvole. Cioè la prima parola è quella che si dice del serial killer: ma mio figlio è un bravo ragazzo, mia figlia è una bravissima ragazza. Va bene Selvaggia, la sigla ci porta via, ma è un argomento che ritornerò a toccare, tornerò a toccarlo anche con te. Alla prossima.